alimentazione, sia 220 che a 12. Oh, ecco, cos'è? Quell'interno mi fanno risparmio. Come spilleggia? In quegli interni, lo fanno a filo proprio di. A filo di cosa? Di sottoalimentazione, capito? Come ampere. Adesso lo sto usando con quell'interno, prima c'avevo quello da 50 ampere, stavo usando addirittura. Come fa a fare l'alternata? C'ha l'avvento, a quello sì. Ah, il contrario, no, ho capito il contrario già. Quindi stavano usando con quello esterno, e vabbè, qualche cavetto intrecciato, che ne so. Bene. Ma comunque l'FM è meno schifosa dell'M, o è schifosa quanto l'M, la modulazione di questo? No, mi sa che va meglio qua, più chiaro. Più chiaro è una parola grossa, diciamo meno schifosa, dai. Cava cava, e questa com'è invece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola. Guardate a vedere com'è adesso qua. Va bene Antonio, va bene, prova. 1, 3, prova. Oh, yeah. Quanto è il segnale? Oh yeah! Santiago 3. E domani? Non gli avrai che gli faranno. Aspetta che guardo bene, perché ce l'ho giù questo qui, non lo vedo, se no. Prova a vedere. 2, 3, prova. Sì, Santiago 9-10. Anto, anche tu c'hai il bip solo in FM? Sono fatti così questi apparecchi. Adesso dovrei averlo anch'io. Ecco che mi chiede un bip. Roger bip. Ah, adesso col bip c'è. Ma se messo un bip breve. Io non riesco a metterlo però. Oh, com'è l'impostazione? Cavolo. Eccolo, aspetta. Eccolo qua. Ah, le stesse funzioni. Ah, le stesse funzioni di quello di Antonio. Sì, è lo stesso apparato, però c'ha la mascherina meno rifinita questa. Ovviamente Pullman ha fatto la versione per poveri dello Zeus, capito? Non capito. C'è il numero Gianni. Sì, ma te lo manda Gianni e Gianni te lo gira a te, te lo faccio vedere com'è. È bello, c'ha il display blu. Sì, lo conosco a me l'ha detto, lo conosco, ce l'ho. E io quando ti sto arrivando, Antoine, a te, Antoine. Ehi, sei... Le lancette sono un bel su, sono. Sei forte qua, Kappa, dai. E vabbè. Antoine, a te bene sta andando adesso, guarda. Hola. 9.40, 80. Ma c'è, però che va bene, cazzo. Ciao. E quanto sta arrivando? Ottava? 9.40. Cazzarola, va bene allora. Va bene, sì. Ciao a tutti gli amici, io non mi ascolto, scusate, avanti già, scusa. Ehi, allora. Ciao, mi sentito Mario. Se vuoi restare, siamo qua. Sto facendo un lavoretto, lo devo fare per forza. E sono obbligato a farlo. Vi ascolto leggermente e dopo chiudo e vado a cena, dai. Ok, ciao, grazie Gian, ciao. Ciao Mari, ci sentiamo, dai, buona serata. No, a continuazione, dai, sta per finire. Avanti Antonio. Ah, salutoni Marino. Non ti sente tanto. Riserva, Antonio riserva, all'appello. Vedo la benzina. Riserva, adesso è la riserva fissa. Marco, avanti, svegliati il sonno. Allora, questi apparecchi, questi apparatini, molti di quelli di adesso miniaturizzati, da quando premi la portante a quando trasmette effettivamente, c'è un ritardo di, non dico mezzo secondo, ma 200-300 millisecondi. Quindi prima si preme e poi si parla, se no rischi di uscire dimezzato, cappa. È come quando c'è il bip che c'ha il ritardo. Sì, già, te l'ho mandato in foto, amico. È bellino, amico, un apparecchio, cavolo. Già lo conosco, Antu, lo conosco. Ma ce l'ho da un po' di anni, ce l'ho. Da 5-6 anni fa l'ho preso. Forse anche di più. Ma ha sempre funzionato bene. Ma anche questo c'è male. Sì, c'è una bomba, gra. E questo ne spirreggia. Sì, vabbè, quindi mi sento sempre, questo l'ho sentito, questo è il Barrett 956 SB. scheggia. Va bene, continuate, vai. Sono entrato adesso. KK, avanti già. Siamo in FM. Ah, siamo in FM, siamo. Ecco perché il cazzo è tutto in giù, la profonda scala in occhi. Va bene, dai. Ci sentiamo dopo se coincide. Ciao. Ma dai, ciao ciao. Gianni. Ehi, ciao Claudio, ciao, ci sentiamo. Avanti, Marco. Ehi, ciao Claudio, sì, una modulazione molto lì, molto molto chiara e anche forte, forte. Io sto usando lo stesso che a bombola adesso. Senti che robetta, che robaccia, vabbè. Scusa Alto, non per te, ma... Pure lo vanno male, dai. No, vi ascolto bene io, sia te che Antonio che sotto. Gianni è un po' più stretto e questo è un po' complicato con i filtri, però vi ascolto bene lo stesso, Sì, sì, sì, quelli sono... Poi poco fa dicevi che ha un ricevitore di una sensibilità eccezionale, anche perché quella è roba professionale, quindi deve garantire certe specifiche, cioè deve funzionare come Dio comanda. No, no, mi sento benissimo, mi sento benissimo. Dai, ci sentiamo ragazzi, che è tardi. Devo anche preparare la cena. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ma e se avessi trudieggia così? No, già ti sento bene, te lo sapere, tutto già va bene, vai già. Ehi, ciao Claudio, ci sentiamo, dai, buona continuazione. Avanti, Antenor Riserva. Antu. Io ho visto, non tocca a riserva, no? Antenor Riserva è scomparso, E prendi tu, Antu. PK, apri da disegnare, avessi pompa, va. Vai, bello. Tira voce. Il sugato. E su gatto alimentatore che è fendita Cocondor, eccolo con gli occhi a mezz'asta, con gli occhi a mezz'asta. Gianni, stai facendo prove? Cosa, stai toccando qualcosa? No, io? E io no, perché tu non t'avevo sentito. Ah no, forse stavi guardando il video, il pezzo di video. Eia, sono molto molto simili, cioè dentro uguale, l'estetica cambia leggermente. Ripeto, qua è più spartano, mi più squadrato il frontalino. Sì, l'ho visto Marco, l'ho visto adesso. Stavo guardando quello. Pagappa, mandatelo già. L'ho mandato anche a Marco. Lino, vedo. Sì, già carino, ma voi ci ha mandato il microfono. Vabbè, lo so, io che c'è davvero ma stessi, cosa vuoi? No, è un amplificato di chi ve lo vedi, come dici, come ho fatto io, l'ho modificato l'M93, l'ho pitturato tutti i tasti perché gialli non mi piacevano, li ho fatti neri, l'ho cambiato la capsula e ho fatto diversi lavoretti da un ponte, e adesso esci verso. Non credo che sia. Poi che controllo una cosa. Pagappa, dai, io vi devo salutare, dai. Che è pronta a mania. Dai, ce la risentiamo alle prossime. Adesso sono rientrata a tempo pieno, quindi siamo un po' più tardi. Ciao ciao, dai, ce la risentiamo. Ciao ciao Anto, ci sentiamo. Buona serata, saluta la signora. Sì, ok. Piano di giù che sta cucinando. Ciao Antonio, ciao. Ciao. Marco, riprende. Mamma mia, non lo posso guardare questo apparato. Ho fatto una foto, no? Con rispetto al 3009, con le luci blu peraltro. Non si può guardare questo Polmar. Ma tu il 3009 con le luci blu ce l'hai? Anche, avevo tutte e due le versioni. Quella con la display rosso, che è un po' più retro, però col display blu ti dirò, appena l'ho provato il primo giorno non mi scompifferava, invece adesso dico che è una gran figata. Adesso ti mando la foto. Mandami anche l'apparato, che a me piace il blu. Ti mando un ragazzo tipo quelli della pizzeria, amico, il bauletto dietro. Ecco, no, non l'ha mandata, non l'ha mala. Sì, ho imparato, diciamo, a apprezzarlo, però già, cioè adesso stanno facendo tutti gli apparati con le luci blu, basta, non è una fantasia. Aspetta Marco che lo metto a 12. Eia. Poi non ho capito l'alternata, vabbè, io ho un volume basso già, sai che non posso disturbare la camera accanto che mamma segue la TV. Cioè non posso, non voglio disturbare. E poi rimbomba qua, si alza il volume del baracchino. Sai perché l'ho messa a 12? Perché scalda di più a 220. Scalda perché l'alimentatore ce l'ha interno, logicamente, ma invece quello esterno non lo senti. Tutto sporco questo smartphone, devo pulire, ci sono le dittate sulla fotocamera, dai, vabbè, poi è sporco anche l'apparato, non so più comprendomi, prima mettevo il telo, antiposa, ma non me la fatti nulla. Alti e bassi. Ho capito, dai. Bravo Marco, dai, io vado che vado a portare giù il cane, dai. Così almeno mi faccio un giretto anche, mi fa bene. Devo camminare. Eia, vai, vai, già, cosa che dovrei fare anch'io, camminare più spesso, non uscire in macchina. Camminare, sennò io a far fermo poi ne risentono le articolazioni. Va bene, dai, buona serata a tutti, anche quelli d'ascolto, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao, ciao, quelli di esecutivo. Ciao, ciao Marco, ci sentiamo, buona serata. E ricordati che l'apparecchio è in FM adesso, cioè rimettilo in M. Ahi, no, ma quello là che cos'è? Lo stavo toccando, lo stavo rimettendo in AM, però ci sono le lettere A, B, C, D, F, stavo cercando la lettera giusta dove sentivo a tutti, capito? Se non ci fosse stato il pomeriggio era un casino a rimetterlo a posto, perché non c'ho istruzioni di quell'apparato. Se avessi avuto le istruzioni sarebbe stato il gioco da ragazzo, ma non c'ho istruzioni, quindi ci sono dovuto andare a tatto. Di quale apparato? Cosa? Di quale apparato le istruzioni? Del portatile. Ah, quello... non si trovano più online, dovrebbero esserci già. Poi è talmente semplice che... O sto sbagliando io, ma tu hai quello grigio, è Intec. No, non è quello lì, quello che mi ha venduto Gianfranco, quello che c'ha l'attacco, che va in biforcazione, c'ha uno va all'antenna e uno va all'alimentazione. No, c'ho anche quello lì, quello che stai dicendo tu, ma io non sto usando quello in macchina, sto usando l'altro, quello che mi ha venduto Gianfranco. Ah, perdonami già, io ancora stavo pensando all'Intec che avevo anch'io, però nero quell'Intec, no? Ok, no, allora va bene. Va bene, dai, buona passeggiata, buon tutto e ciao a tutti, ciao ciao. Allora, te lo descrivo l'Intec che c'ho. Praticamente c'ha 40 canali, c'ha le bande A, B, C, D, E, F, G, eccetera, eccetera. In più c'ha l'FM, in più c'ha lo smitter, c'ha tutto quanto. Lo smitter però è di quelli a coso, come si dice, quello che non con la lancetta ma cose, come si chiama, no? Adesso non mi viene. Ma sarà l'Intec 520, no? Quello è meraviglioso. E quello c'è. Sono geloso. Sto scattando, lo volevo anch'io quello, però non l'ho mai preso per tircheria. Capito? Quello era veramente bello. Anzi, ti dirò che era più bello l'Intec dell'Ala 42, perché l'Intec aveva un display molto più grande, molto molto più bello. Sai cosa gli ho dovuto fare? Solo cambiargli il cavo di alimentazione che avevo io, quello del Midland, l'ho dovuto sostituire, un amico mi ha fatto un lavoro, me l'ha mi ha sostituito lo spinotto e ci abbiamo il filo nuovo perché c'era il filo un po' mangiato secco. Eia, comunque sai che non ho l'ente che non lo fa più, non lo trovi più in vendita da nessuna parte con l'apparato, è diventato un must, cioè quello andava comprato quando era in vendita e adesso non si trova più. Tu l'ente che, guarda che prima in catalogo avevo una marea di apparati, adesso l'ente che in catalogo ha solo un CB auricolare chiamato Intec 899, tutto il resto non ha più portatili, non ha tutti quei auricolari di prima, non ha più gli apparecchi anche non omologati, nulla, non c'è nulla veramente. Sembra che stia decadendo nel settore baracchini. Tanto non la 27, non dico che sia morta, ma quasi, dipende dalle città. Sì, ma dipende anche da quello che fanno. Ci sono posti dove fanno anche il contest, un continente. Contest, gite, cene, tra CB. È una grande famiglia lì, è diverso da qua, capito? Lì sono veramente tutti molto amici. Guarda, già tutto il mondo è paese. Io ho sentito anche da forum in certi paesi della Sicilia o città ci fanno la forca uno con l'altro, tra gli amatori è una forca brutta. Tutto il mondo è paese già. Dipende a culo. Dipende, come in certi condomini si va tutti d'amore d'accordo, in certi altri invece sono tutti delle carogne. Non voglio fare allusioni in loco. K, dai. Poi se mi fai 5 secondi un colpo di telefono ti dico una cosa. Ah, mi vuoi fare il gioco della calzetta, là? No, di un apparato ti voglio parlare. Di quello che hai detto tu che non se ne trovano più. Patteggiamo? No, vabbè. Portatile, a parte gli scherzi già. Cioè, non sapete usarlo. Non... Vabbè, dai, dopo ci sentiamo, dai. Porta questo cane, poveretto, che vuole uscire. Sì, no, già. Quando porti il cane, ti picchiamo, dai. Ciao. E a dopo. Ciao a tutti, quello di esecutivo, non riprendo, ciao.